Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Premetto che di solito non me ne importa un granché di come passano la notte i potenti. Lo pensavo del caso Sircana e del caso D'Addario, e non di meno lo penso del caso Marrazzo. Quest'ultimo però ha elementi di diversità notevoli. Ci troviamo di fronte a qualcosa di più grave. Il governatore del Lazio era di fatto in mano a dei ricattatori, e questo non può non gettare delle ombre sul suo operato degli ultimi mesi. Ne sarà stato influenzato? Di fronte a questo diviene quasi superflua la mia curiosità circa le reazioni della sinistra e di Repubblica. 10 domande a Marrazzo non gliele fate? O forse qui di oscuro c'è ben poco e quindi c'è poco da domandare? Oppure ci sarà il solito doppio pesismo da parte del popolo della sinistra? Marco. Il caso Marrazzo, secondo me, non riguarda le scelte di vita privata, poiché ritengo che ciascuno sia libero di assecondare i propri gusti e le proprie tendenze, ove queste non si configurino in un reato. Il caso Marrazzo, secondo me, riguarda un fatto politico. Parliamo di un uomo che può permettersi di spendere 3.000 euro, 6 milioni delle vecchie lire, per una prestazione sessuale a pagamento, ma esprimerei il medesimo disappunto se li avesse spesi per una cena. Parliamo di un uomo pagato con i soldi dei contribuenti, dei cittadini tutti, anche dei più derelitti che pagano l'IVA sul poco che acquistano. È forse troppo facile avere grandi disponibilità finanziarie quando si è in politica? O si tratta di un uomo che non sa minimamente amministrare le proprie risorse e pretende di amministrare quelle pubbliche? L'esponente politico primo della Regione Lazio, quale senso del merito ha nei confronti di chi opera nella società, se ritiene che 3.000 euro siano il giusto compenso per una prestazione sessuale? I suoi compari di tutti gli schieramenti politici gli hanno espresso solidarietà. Quando arriverà il giorno in cui un uomo politico esprimerà solidarietà al popolo italiano, che è costretto a compensare così lautamente il gatto, la volpe, il lupo e il topo? Paolo. Nella politica italiana, da quasi più di un anno, non si parla d'altro che delle attività sessuali dei potenti di turno. Prima i festini a Villa Certosa del Presidente del Consiglio, con le sante vergini. Ora la debolezza nel privato, parole di Marrazzo, del Presidente della Regione Lazio. È incontestabile che, diventando personaggi pubblici, lo siano diventati in tutto, compresa la loro vita privata. Ma mi sembra altrettanto incontestabile che la vita sessuale di un politico, se non commette reati, non debba incidere sul giudizio del suo operato. Cioè, Berlusconi o Marrazzo devono essere giudicati dagli elettori per come hanno governato e non certo per le loro performance sessuali. Il gossip è legittimo, ma non deve essere confuso con l'informazione politica. Nel caso di Marrazzo, l'informazione politica era che fosse stato ricattato da 4 carabinieri. Il gossip era che fosse stato scoperto con un transessuale. Per Berlusconi ciò era ancor più sfumato. Il premier ha frequentato escort, ma dalle intercettazioni non si evince in maniera chiara che lui sapesse che lo fossero. Con ciò non voglio dire che in nessuno dei due casi vi era alcun fatto esplicitamente di rilevanza penale. In entrambi i casi il gossip ha prevalso sull'informazione politica. Il paese ha dei problemi seri e profondi, ma l'opinione pubblica si occupa del letto dei potenti di turno. Smettiamo di guardare nei letti dei potenti e giudichiamo i politici per ciò che fanno o non fanno per il bene del paese. Gli avversari politici, sapendo che l'opinione pubblica giudica più importante la moralità sessuale del politico rispetto alle proposte politiche, si affronteranno a colpi di gossip sessuali invece di proporre delle riforme. La tendenza è già in atto. Cerchiamo di fermarla prima che l'ambiente diventi troppo torbido. Nella camera da letto, se non si viola la legge, ciascuno faccia ciò che vuole e con chi vuole. Importante è riformare l'Italia e non i costumi sessuali degli italiani. Massimiliano. Nella puntata di domenica del programma In Mezz'ora, Lucia Annunziata ha intervistato il ministro Calderoli, dedicando i minuti finali del programma al caso Marrazzo. Perché Marrazzo si deve dimettere e il premier no, ha chiesto l'indomita giornalista, riferendosi con quel deve ad una sorta di obbligo all'esilio imposto dal governo cattivo e ipocrita. Davanti alle ovvie rimostranze di Calderoli, l'Annunziata se ne è uscita tirando in ballo, pensate un po', lo sfruttamento della prostituzione. Proprio così, anche in merito alla vicenda che ha coinvolto il premier. La giornalista conduce un seguito programma di informazione e non sa nemmeno che il cliente della lucciola non commette reato e che lo sfruttamento attiene, come è noto, all'eventuale protettore. Infine, e qui si tratta purtroppo di malafede e non di mera ignoranza, l'annunziata ha finto ostinatamente di confondere l'autosospensione con le dimissioni. È una richiesta notoriamente non soddisfatta, come nel caso da Dario, con un ricatto puro e semplice e probabilmente soddisfatto, come nell'affare Marrazzo, il quale, non avendo denunciato l'accaduto, ha dimostrato, proprio da uomo politico, di non avere fiducia nelle istituzioni stesse. La cosa più rilevante resta il fatto che Berlusconi, come risulta dalle registrazioni audio pubblicate dall'Espresso, non sapeva affatto che lavoro svolgesse la Daddario. Per lui era una che ci stava, sic et simpliciter, non un viados appositamente contattato e remunerato. Ma non è comunque sfruttamento, cara annunziata. La settimana scorsa era toccato al direttore di Repubblica, Ezio Mauro, andare nello studio di In Mezz'ora, ospite dell'annunziata. Domande brucianti e conduttrice incalzante? No, niente affatto. Erano come due amici al bar e Mauro ha tenuto la scena da attore consumato e irrefrenabile prima donna. Marco. Con tutti i doverosi dubbi, ma è mai possibile che gli uomini ai vertici delle regioni e della nazione si mettano in condizione di essere ricattati per deprimenti incontri sessuali? Poiché si sa che il potere dà sensazioni molto simili al soddisfacimento dell'amore carnale, non potrebbero contentarsi di quello per il periodo del mandato? Non ne faccio una questione morale, ma di pura e semplice intelligenza. Dovremmo forse istituire un albo degli eunuchi a cui riservare incarichi di governo e di amministrazione? Potrebbe essere un'idea. Che ne pensate? Laura. Solo pochi mesi fa, il buon Dario Franceschini, riferendosi a Berlusconi, domandava agli italiani, con fare estremamente preoccupato e bacchettone, «Fareste mai educare i vostri figli e le vostre figlie da quest'uomo?» Ora io chiedo, divertito, lei invece, caro Franceschini, da cittadino italiano come quelli ai quali si rivolgeva, farebbe mai educare i propri figli da Marrazzo? Riccardo, Roma. Le parole di Marrazzo, ho avuto una debolezza, mi hanno ridato spinta e vigore, perché ho capito che dalla parte in cui mi sono schierato politicamente ci sono degli uomini. Uomini in carne e ossa che possono fare errori e soprattutto ammetterlo e subirne le conseguenze. Il comportamento del PD e dei suoi uomini andrebbe confrontato con quello del PDL e dei suoi uomini. Messi di fronte a uno scandalo, i primi in poche ore hanno dato il via a dimissioni e chiarezza. I secondi, invece, sono ancora tutti lì a negare le evidenze e il colpevole è aggrappato mani e piedi al suo scranno. Rudy. Chi sostiene che le donne siano strumentalizzate dal punto di vista sessuale o di immagine vuol dire che non ha amiche, non ha fidanzate, mogli, eccetera. Molto spesso sono loro ad avere l'ultima parola su tutto e sono loro a decidere la propria vita, le proprie amicizie. Provate voi a costringerle a fare qualcosa che non vogliono. E poi, in ambito televisivo, spesso anche gli uomini si prestano a rappresentare dei corpi con la testa vuota. Massimiliano. Sarà anche un'osservazione ridicola, ma cosa succede quando Berlusconi o chi per esso si lamenta dei giornali comunisti, eccetera? Forse che questi chiudono e i giornalisti vengono perseguiti? O forse invece si riempiono i giornali di controdichiarazioni, discussioni, eccetera? Allora forse la nostra stampa è molto più libera di quanto si voglia ammettere e senz'altro molto di più di quanto il 40° posto in classifica esprima. Patrizia. Berlusconi ha definito la Bindi più bella che intelligente e tutti hanno gridato allo scandalo. La Barrancu, esponente del PD sardo, è stata definita più bella che democratica dal suo stesso partito. Questo non ha scandalizzato nessuno e nessuno ha preparato le magliette. Disgustoso. Piero. Thank you. L'idea del posto di lavoro flessibile, personalmente, non la trovo sbagliata, vista la globalizzazione e la presenza di persone provenienti da tutto il mondo, disposte a lavorare per quello che gli serve a quanto gli basta. Il problema è il sistema del credito bancario, che non concede prestiti ai lavoratori flessibili e, quando li concede, li mette in balia di un'assenza di diritto che li espone al concreto rischio di farsi portare via tutto dagli istituti di credito a causa dell'impossibilità di pagare le proprie rate, magari per pochi mesi, in quanto la flessibilità non gli consente, per un periodo più o meno lungo, di guadagnare abbastanza. Non che il posto fisso protegga, ma sicuramente lo strozzinaggio bancario, anche se oggi diminuito, rende inaccettabile indicare il posto flessibile come la soluzione alla crisi. Oggi bisogna essere flessibili, ma perché noi sì e le banche no? Il denaro alla fine vale più della vita, altrimenti perché non attuare ammortizzatori sociali anche per il lavoro flessibile? Giovanni. Caro Giovanni, il dibattito sul posto fisso o posto flessibile si è avviato fin dall'inizio sui binari sbagliati, come se fosse possibile una reale alternativa, e poi sembra essersi perso, travolto da altri argomenti di attualità. Lei giustamente pone in rilievo come il problema non sia quello che potremmo chiamare la struttura giuridica del rapporto di lavoro, quanto il fatto che i lavori a termine rendono più difficile il ricorso al credito bancario, alla stipula di mutui per la casa, alla possibilità di ottenere prestiti per superare momenti difficili. Premesso che un posto fisso è meglio di un posto precario, ma che un posto precario è comunque meglio della disoccupazione, dove può essere la soluzione? Non certo chiedendo alle banche di trasformarsi in enti di beneficenza, ma, come lei stesso osserva, con una politica sociale che abbia l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro, ma insieme di garantire il reddito delle persone che si trovano senza lavoro, per mettere sullo stesso piano coloro che perdono il posto e che si impegnano a trovare un nuovo lavoro. Se ci fosse questa garanzia sociale, anche l'atteggiamento delle banche non potrebbe che cambiare. Il sistema bancario, comunque, ha già dato nei giorni scorsi un buon esempio, con la moratoria di un anno per i mutui delle famiglie in difficoltà. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.